Radio 24 Reportage. Cacciatori di virus di Rosanna Magnano. La sequenza dell'intero virus è stata resa disponibile dai cinesi molto presto, siamo intorno agli inizi di gennaio. Su quella base sono stati disegnati i metodi per la ricerca del virus. Ma trovare un virus con un metodo molecolare non vuol dire avere il virus, perché per avere il virus bisogna isolarlo, ovvero sia bisogna metterlo in coltura sulle cellule e farlo replicare. Questo è quello che è successo in pochi laboratori al momento, ma ne verranno fuori anche altri. Sono laboratori che hanno delle capacità di coltivare virus con metodi di virologia classica e che hanno laboratori di biosicurezza almeno di livello 3, perché il virus è classificato a questo livello come rischio biologico. A parlare è Maria Rosaria Capobianchi, direttore del laboratorio di virologia del Centro di Riferimento per le Bioemergenze Lazzaro Spallanzani di Roma e coordinatrice del team che tra i primi in Europa ha isolato il nuovo coronavirus. Oggi vi portiamo sulle tracce dei cacciatori di virus che hanno fatto il primo passo per decifrare aspetti ancora sconosciuti di questo nuovo nemico biologico. Avere il virus isolato vuol dire avere a disposizione uno strumento per, da una parte, allestire i test sierologici che sono importanti per capire quando compaiono gli anticorpi lungo il decorso dell'infezione, per capire se gli anticorpi sono capaci di fermare l'infettività del virus, e questo è associato in genere con l'inizio del miglioramento e della guarigione. E inoltre avere il virus vuol dire avere a disposizione un sistema virus-cellula che ci permette di studiarne le caratteristiche biologiche, di fare una valutazione di sostanze antivirale con potenziale antivirale, e poi sicuramente è utile per allestire modelli di infezione che possono aiutarci ad allestire un vaccino prima di arrivare alla fase di test sull'uomo. Un'epidemia che sta paralizzando la Cina e spaventando il mondo. Per sconfiggerla è iniziata una battaglia della conoscenza. E il primo eroe di questa guerra è quel giovane medico cinese, Li Wenliang, che aveva dato per primo l'allarme sulla diffusione del coronavirus, ma non era stato ascoltato. Un oftalmologo di 34 anni, morto per il contagio. Uno dei fattori chiave per contenere l'epidemia è la messa a punto di test diagnostici rapidi ed efficaci. L'ultimo nato e il più veloce al mondo arriva dall'Università di Hong Kong, in grado di dare una risposta in 40 minuti. E per consentire a tutti i paesi di monitorare i casi, l'OMS Europa ha attivato un network di laboratori che lavora in modo coordinato. Ogni paese della regione europea dell'OMS è in grado di effettuare un test affidabile. L'Europa è a buon punto, spiega Richard Peabody, leader del team per i patogeni ad alto rischio. Al momento non esistono cure scientificamente comprovate e le prime prove in vitro effettuate in Cina con l'utilizzo di vecchi antivirali attendono conferme. I big dell'industria farmaceutica mondiale sono al lavoro per trovare possibili terapie e arrivare alla formulazione di un vaccino. In Italia è a buon punto una piccola e giovane azienda biotech, la Takis. L'amministratore delegato e responsabile scientifico Luigi Aurisicchio. La tecnologia che noi utilizziamo viene chiamata vaccinazione genetica. Vuol dire che invece di utilizzare il virus stesso che viene inattivato e che tra l'altro diciamo sarebbe anche pericoloso avere a disposizione in questo momento, utilizziamo i geni che sono presenti all'interno del virus. Il vaccino viene iniettato nel muscolo del paziente. E poi la nostra tecnologia consiste nel fare in modo che l'antigene, del virus codificato da quel gene venga espresso e reso visibile al sistema immunitario. E questa, è una tecnologia assolutamente innovativa perché induce una risposta immunitaria molto potente, ma soprattutto ha il grosso vantaggio di essere molto veloce. Quello che possiamo fare noi come piccola azienda di biotecnologie è sicuramente quello di sviluppare il vaccino in un modello preclinico, quindi nei topolini sostanzialmente, e verificare che il vaccino sia in grado di bloccare la propagazione del virus, e questo lo faremo in collaborazione con lo Spallanzani di Roma. È ovvio che nel momento in cui il vaccino dovesse avere un successo a bloccare per esempio la propagazione del virus, ci servirà un finanziamento per portarlo ad un livello superiore, e noi come piccola azienda non siamo in grado in questo momento di portarlo fino all'uomo. Abbiamo necessariamente bisogno o del supporto di un'azienda farmaceutica oppure di un supporto dal Ministero della Salute, piuttosto insomma che da altre fonti tipo pubblico, ecco. Da quando è esplosa l'epidemia si assiste a un boom di articoli scientifici, la metà dei quali dedicati al nuovo coronavirus. Ed è uno studente di medicina al sesto anno, Domenico Benvenuto, la prima firma di una ricerca condotta al Campus Biomedico di Roma, che ha permesso di capire quali fossero le mutazioni genetiche che hanno permesso il passaggio del virus dal pipistrello all'uomo. Noi abbiamo analizzato le sequenze messe a disposizione dai cinesi del nuovo coronavirus e tramite delle tecniche di bioinformatica abbiamo ricostruito l'albero filogenetico che ci ha detto esattamente dove erano collocate dal punto di vista temporale e geografico le sequenze, quindi i pazienti, e ci ha permesso poi di capire che effettivamente si trattava di un virus che aveva delle relazioni molto strette, quindi come probabile origine il coronavirus del pipistrello, necessaria alla sorveglianza molecolare, non solo quella epidemiologica, perché attraverso il codice genetico di questo virus noi siamo in grado di prevedere per sommi capi se e quando ci saranno possibili nuove mutazioni, e tra l'altro non solo prevediamo in avanti ma prevediamo anche all'indietro, e siamo capaci quindi di stabilire come nel passato questo virus è cambiato e da dove si è spostato, da dove deriva, quindi possiamo dargli una collocazione geografica. Questo quindi ci permette di poter prevedere future epidemie e di studiare meglio quelle che ci sono per individuarne la causa e partire con le ricerche prima che succedano nuove epidemie. Abbiamo chiesto a uno dei massimi esperti mondiali di vaccini, Rino Rappuoli, quali sono le sue previsioni sul coronavirus. Oggi è possibile fare dei vaccini con tecnologie nuove. Almeno il primo prototipo è possibile farlo abbastanza brevemente. Ci sono tecnologie nuove tipo vaccini sintetici fatti di RNA, in cui si prende la sequenza da internet e si inserisce in un sintetizzatore, il sintetizzatore ci fa un RNA che può essere iniettato, e questo è un vaccino. Quindi fare il primo prototipo per RNA ci vuole forse una settimana, per i vaccini virali forse 3-4 settimane. Per i vaccini da virus uccisi o proteine ricombinanti ci vuole qualche mese. Però il problema importante da capire è che una volta fatto il prototipo è stato fatto il 10% del percorso per fare un vaccino. Poi bisogna provarlo, assicurarsi che funzioni, fare i test in vitro, in vivo. Chiaramente in condizioni di emergenza si è più pronti a prendere dei rischi sulla sicurezza, e quindi si può accelerare moltissimo i tempi di sviluppo di un vaccino. Per esempio con l'Ebola è stato registrato in 5 anni. Mentre è stato fatto questo percorso più veloce per l'Ebola, abbiamo capito che si può accelerare ancora. E soprattutto le agenzie regolatorie, devo dire che sono in questi casi a completa disposizione e facilitano enormemente la velocizzazione del processo. Quindi secondo me per un vaccino per il coronavirus, se siamo fortunati, nel giro di 1 o 3 anni potremmo averlo. Per lo sviluppo di un vaccino i costi stimati medi sono circa di $1 miliardo. È chiaro che $1 miliardo vuol dire fare tutte quelle cose per 15 e 20 anni che usiamo per fare un vaccino normale. Qui i costi saranno più bassi, ma perché si farà molto più veloce, però quando si tratta poi di industrializzarlo, produrlo per tutto il mondo e così via, i costi saranno comunque nelle centinaia di milioni di dollari. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.